C'è una cosa che tu non sai, e dentro me si dibatte, vuole uscire, sbatte già le ali. Le cose che non si dicono si possono chiamare emozioni mute. Lai la lai la la, lai la lai la la lai, la lai la la lai la, la la lai la. C'è una cosa che tu non sai, e dentro me si dibatte, vuole uscire, sbatte già le ali. Le cose che non si dicono si possono chiamare emozioni mute. Lai la lai la la, lai la lai la la la, la lai la la lai la, la la lai la. Il nostro cuore non conoscerà mai il sapore di quelle emozioni che si sa breve vita. La ricorda che tu non sei sola, io sono qui, ti prendo per mano, si dissolverà in vento ogni nuvola. Lola, e questa notte la mente vola, ci porterà lontano, siamo già sulle ali di un aeroplano. Difenderò. Tutto il bene che provo per te.